Bordo Campo di Dario Ricci. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? I think it's depressing news on top of what's been a flurry of depressing items when it comes to Major League Baseball. And if you're a fan of Major League Baseball, I think it tarnishes an entire era. Una notizia deprimente. Così il presidente americano Barack Obama, grande tifoso dei Chicago White Sox, ha definito l'ultimo scandalo doping che ha investito lo sport più popolare d'America, il baseball. Il grande campione dei New York Yankees, Alex Rodriguez, ha ammesso l'uso di steroidi tra il 2001 e il 2003, quando vestiva la maglia di Texas. È solo l'ultimo di una serie di casi di doping che ha caratterizzato quello che negli Stati Uniti viene definito il passatempo nazionale, ovvero lo sport della mazza e del guantone. E allora abbiamo scelto una guida d'eccezione per capire cosa gira intorno al mondo del baseball a stelle e strisce. Alessandro Maestri, 23 anni, l'unico italiano sotto contratto con un club della Major League Baseball, i Chicago Cubs. Sarà lui allora a guidarci alla scoperta dell'America del diamante. Alex Maestri now comes into the game. This guy's a very interesting story, Cap. First Italian-born pitcher ever to play professional baseball. La passione per il baseball è nata abbastanza presto, direi, verso i 6 anni già iniziavo a fare i miei primi allenamenti, le mie prime partite. Tutto è iniziato grazie a mio fratello che, essendo più grande di me, mi ha un po' coinvolto, diciamo, in questo sport. Appunto ho iniziato a giocare, poi avevo anche un bel gruppo di amici e quindi la cosa si è fatta sempre più, diciamo, divertente, interessante, fino a che poi ci sono state anche soddisfazioni come le chiamate in nazionale, nelle varie giovanili, quindi dai, è uno sport che è un po' cresciuto in me col tempo. Niente, dopo qualche anno fa, 4 anni fa, ho avuto, diciamo, anche un po' la fortuna di essere visto da degli scout americani nelle varie competizioni europee e diciamo che mi hanno dato la possibilità di andare a provare a giocare là negli Stati Uniti, dove comunque lo sport è uno degli sport più seguiti. Ho colto questa occasione al volo e sono già 3 anni, 4 con questo che viene, che mi trovo là a giocare. Ora, chiariamo subito, tu sei romagnolo di Torre Pedrera. Ora, nascere in Romagna e avere la passione per il baseball è un po' come nascere a Nettuno, vicino Roma, e coltivare questa stessa passione. Cioè, parliamo di quelle aree dell'Italia dove il baseball è tutt'altro che un passatempo, è una vera e propria passione, è quasi il primo sport che viene praticato dai giovani, no? Sì, sì, beh, dai, non so se comunque è il primo sport, comunque diciamo che è una di quelle zone dove il baseball non manca, quindi sicuramente anche quello ha aiutato a far crescere appunto questo sport in me. Da Torre Pedrera a Chicago, dove giochi, se non sbaglio, no? Tu sei nei Tennessee Smokies, il salto non è piccolo. Quando ti è arrivata quella chiamata, che serata è stata? Come l'hai detta a casa? Beh, ti dirò, è una decisione che comunque ho fatto anche insieme alla famiglia e tutto quanto. E le paure comunque c'erano, le paure prima di iniziare questa esperienza, però dall'altra parte c'era anche diciamo, l'entusiasmo, la curiosità e comunque anche il voler vedere dove sarei potuto arrivare con questo sport. Quindi diciamo che è stata una decisione tutto sommato abbastanza facile. Senti, lanciatore, spiegaci un po' come sei arrivato negli Stati Uniti, nel senso che non si approda direttamente nella Major League Baseball, il cammino è duro e si fa tutta la trafila delle squadre minori, no? Delle squadre satellite che vengono controllate dalle grandi franchigie del professionismo. Sì, sì, esatto, e infatti tuttora io mi trovo appunto, gioco nelle leghe minori. Queste squadre di Major League, che appunto sono 30 negli Stati Uniti, hanno tutte delle giovanili dove appunto crescono i loro giocatori, e queste giovanili diciamo sono organizzate in varie squadre di vario livello. Quindi diciamo, non so, quando sei giovane arrivi lì verso 18 anni, giochi nella Rookie League dove sono tutti comunque gente della tua età e gente un po' magari anche inesperta, e man mano che giochi e progredisci comunque sali di livello, quindi non è una strada facile, anche perché i giocatori sono tantissimi e diciamo le partite sono un'infinità, però la voglia è tanta, soprattutto anche venendo da un paese dove magari ce n'è meno di baseball, quindi la voglia è tanta di venirne fuori e quindi ce la si mette sempre tutta. Tra l'altro, insomma, vedo che c'è una specie di rating, no, per le vostre squadre. Per esempio, tu hai militato nei Boys Oaks, che ha un rating A meno, poi nei Peoria Chiefs A, Daytona Cubs A più, Tennessee Smokies AA. Insomma, c'è veramente un livello crescente che ti avvicina alla Major League Baseball. Quanto ci manca per vederti con quella mitica maglietta dei Cubs? La strada è sempre molta. Adesso sono arrivato ad un livello dove, diciamo, sei praticamente molto vicino ma allo stesso tempo lontano. Diciamo che dove ho finito di giocare io l'anno passato è già un posto dove molta gente già sale nella Lega Maggiore, e comunque il doppio A è visto come, diciamo, una serie B del calcio qua in Italia, nel senso che ci giocano moltissimi giovani che comunque hanno delle prospettive per salire, e quindi, come dicevo, con un po' di fortuna e giocando bene, la possibilità già c'è da questo anno in poi, quindi speriamo in bene. Guardiamo un attimo fuori dal campo, fuori dal diamante, no? Come si dice. Sì. Il fatto che un italiano sbarchi con l'ambizione di giocare tra i professionisti, come è visto negli States? Oddio, non è che non abbiamo fatti di regali importanti al baseball statunitense, mi viene in mente il nome di Joe DiMaggio, però insomma è comunque una grande sfida. Come la vedono i tuoi compagni? Ti dirò, inizialmente un po' di bocca un po' storta, quando sono arrivato, di gente che guardava un po' in modo strano c'erano. Dai, gli italiani che giocano negli Stati Uniti non se ne vedono tanti. Quindi niente, devi solo superare quella prima difficoltà lì, devi cercare di guadagnarti un po' il posto, anche un po', diciamo, tra virgolette, rispetto. Però poi una volta che ti sei fatto vedere, la gente naturalmente c'è. E ti tratta come uno di loro. E invece dal punto di vista tecnico quali sono le differenze principali? La cosa appunto principale è che negli Stati Uniti, sin dalle giovanili, la gente gioca tantissimo, fanno un sacco di partite, mentre magari qua in Italia anche i campionati sono un po' più corti o prevedono meno partite, quindi il fatto per loro di giocare tutti i giorni e anche magari fare più partite all'anno sicuramente li migliora probabilmente il doppio rispetto a noi. Da questo punto di vista, quali sono i tuoi punti di riferimento tecnici, i tuoi idoli, diciamo così? Diciamo che anche crescendo di giocatori ne ho visti tanti, e mi capita di guardare molte partite di Major League e tutto quanto. I nomi più famosi sono quelli di Greg Maddux, di Roger Clemens, gente comunque americana. È chiaro che poi più cresce, più inizi anche a guardare altra gente, magari guardi un po' tutte le persone, prendi quello che ti piace in una, quello che ti piace in un altro, però diciamo gli idoli sono tanti e sarebbe bello a volte pensare anche di essere al loro posto poi un giorno. In questi giorni, tra l'altro, di baseball si è occupato anche il presidente Barack Obama per una situazione non certo piacevole, no? C'è stato il grande campione di New York, Rodriguez, che ha confessato apertamente l'uso di doping per migliorare le proprie prestazioni quando vestiva ancora la maglia dei Texas Rangers. È una piaga questa del doping che purtroppo ha spesso caratterizzato il baseball statunitense, basti ricordare anche il caso dell'altro grande campione, Barry Bonds. Ecco, da questo punto di vista come viene vissuto questo problema? Mi sembra che la sensibilità in America su questo tema sia progressivamente aumentata. Sì, purtroppo anche negli ultimi anni sono venute fuori storie di vari giocatori. Naturalmente non vengono viste bene, anche giustamente. È tutta gente che comunque ha fatto, diciamo, la storia del baseball. E comunque rischia anche di non entrare nella Hall of Fame proprio per questi problemi. Purtroppo il problema del doping si vede un po' tutti gli sport ultimamente. Secondo me sarebbe giusto punirlo, perché non è giusto verso la gente che poi magari si allena ogni giorno cercando di migliorare con le proprie forze, quando poi arrivano queste persone che, tra virgolette, fregando, ti rubano il posto comunque o ottengono risultati migliori rispetto a te. Anche perché, Alessandro, mi sembra di aver visto che il mercato estivo del baseball, dopo la vittoria di Philadelphia, no, nelle World Series, malgrado la crisi economica che c'è negli Stati Uniti, si è mosso sempre su cifre da capogiro, proprio con gli Yankees, i Cubs e i White Sox, protagonisti, insomma, di acquisti importanti. Da questo punto di vista, com'è vissuta questa situazione in America? Cioè, c'è il risentimento tipico magari dell'americano medio che perde il lavoro e vede gli Yankees che acquistano per milioni di dollari un grande campione, oppure al baseball tutto è permesso? Beh, ti dirò, io per quanto ho vissuto là negli Stati Uniti, ti dirò che secondo me al baseball è un po' tutto perdonato. Comunque la gente ama guardare lo sport in generale, è un bellissimo passatempo per loro, e quindi più delle volte, magari non è come qua in Italia dove ci arrabbiamo, vediamo i calciatori magari che prendono tanto e ci mangiamo il fegato, là per quello che ho visto io è un po' più tranquilla la situazione, la gente perdona un po' tutto agli sportivi. Anche perché questo col baseball è, secondo me, è più di un legame tra uno sport e il proprio popolo, no? Attraverso il baseball si stringono i legami familiari, cioè da quello che so, insomma, fine settimana al prato si fa il barbecue e subito spunta fuori il guantone, la mazza e si comincia a giocare. Sì, sì, ti do pienamente ragione. Comunque ti dico, anche solo al nostro livello di leghe minori, non ti puoi immaginare quanta gente venga allo stadio ad assistere alle partite. Io appunto anche solo 2-3 anni fa, quando avevo appena iniziato, mi è capitato di giocare davanti a 15.000 persone, e il che magari, cioè, qua in Italia non succederebbe mai, diciamo. E è bella proprio l'atmosfera che si viene a creare, perché è l'atmosfera appunto di famiglie che vanno al campo per passare quelle 3-4 ore di relax, magari bevendo la loro birra, mangiando il loro hamburger o quello che è, e però passare del tempo insieme, non so, al proprio figlio, ai propri amici, diciamo dicendo due cavolate tra di loro, guardando la partita e comunque cercando di passare un pomeriggio in tranquillità. E poi i luoghi del baseball diventano luoghi storici, no? Mi viene in mente le grandi cerimonie d'addio al Yankee Stadium, che ha chiuso i battenti a settembre, che verrà sostituito da uno stadio più bello, esattamente a 100 metri da quello stadio, ma che non sarà quello Yankee Stadium. Tu ci sei stato mai allo Yankee Stadium? Che emozione ti ha dato? Dunque, io ero stato all'età di 12 anni e l'emozione era immensa. Io appunto ero andato là per un torneo con la mia squadra di Rimini, è stato fantastico. Eravamo andati sia allo Yankee Stadium che allo Shea Stadium, quello dei Mets, e non ti dico, cioè, tu sei praticamente una formica all'interno di questo stadio enorme, è una sensazione spettacolare, tutta la gente che è lì solo per vedere la partita, è fantastico. Senti, ma te l'hanno detto, sì, che i siti specializzati ti danno tra le grandi promesse in vista della prossima stagione, magari questo passaggio nella Major League non è poi così lontano? No, ho letto di questi articoli, però sono sempre stato uno che non ci fa molto caso, voglio dire, sono articoli dove fai presto a finirci magari, però fai anche presto a venirne fuori, quindi bisogna sempre continuare e a dare il massimo a testa bassa. È chiaro che fanno piacere, perché il riconoscimento fa parte della scalata verso comunque quello che si vuole raggiungere, però il peso che gli do non è poi così grande. C'è un modo di dire nel vostro spogliatoio per augurarvi in bocca al lupo? Loro usano il termine buona fortuna, good luck, quindi diciamo quello lì. Allora, good luck Alessandro Maestri, e al prossimo fuoricampo o al prossimo lancio ben riuscito. Al prossimo strikeout. Ok, ti ringrazio. A bordo campo. E sì, lo sentite, musiche irlandesi ci accompagnano in questa seconda parte di A Bordo Campo, perché è l'Irlanda, del rugby, e non solo l'Irlanda, ma anche il Galles e la Scozia che chiamano il rugby azzurro. Si parla di organizzazione della Coppa del Mondo in Italia nei prossimi anni, si parla dell'ingresso ormai vicinissimo di squadre italiane nella cosiddetta Celtic League, campionato sovranazionale che riunisce appunto formazioni gallesi, scozzesi e irlandesi. E la cosa interessante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo politico, perché insomma molti sono i candidati ma pochi saranno gli eletti ad entrare in questa Celtic League. E allora ne parliamo con l'onorevole Gianni Fava, delegato della Lega Nord per il Sud, ma soprattutto ex giocatore di rugby ed ex presidente del Viadana, una delle squadre di vertice del movimento rugbistico italiano. Allora, onorevole, buongiorno innanzitutto, e insomma ci fa piacere sapere il suo punto di vista su questa situazione, visto che lei è stato anche un ottimo giocatore di rugby. Guardi, ottimo, lo ringrazio, è abbondante la descrizione. Ho giocato un po', diciamo così, molto, molto realisticamente. In che ruolo giocava, onorevole? Ho giocato in Ischia, ho fatto il tallonatore, il pilota, in una distanza robusta, e quello era il mio destino, ecco, molti anni fa ormai però. Tra l'altro anche con un ruolo importante nel Viadana, di cui è stato presidente, no? Sì, sono stato il presidente del Viadana anche in questo caso un po' di anni fa, e vivo a Viadana, è un po' la mia passione, ecco. Beh, insomma, passione condivisa da molti italiani, anche se il Sei Nazioni è iniziato col piede sbagliato. Che impressione l'ha fatto questa Italia, onorevole Fava? Ma questa Italia, dal punto di vista tecnico-agonistico, è ai minimi storici, però è il miracolo italiano, del miracolo del rugby, nel senso che io domenica a Flaminio ho visto 32.000 persone sorridenti, a prescindere dallo spettacolo che non era sicuramente dei migliori. Non c'è il rischio che però questo grande patrimonio venga disperso a fronte di risultati così deludenti? Ma io credo che il rischio ci sia nel lungo periodo, poi è possibile. Certo è che se ci fosse anche la possibilità di avere qualche risultato internazionale sarebbe meglio per tutti. In quest'ottica credo che la Celtic League sia un bivio fondamentale. Infatti entriamo proprio nel vivo del problema, perché l'Italia, che sul campo fa così tanta fatica, dal punto di vista organizzativo si sta muovendo per ottenere risultati importanti. Il primo, direi, è la presentazione ufficiale della propria candidatura ad ospitare la Coppa del Mondo nel 2015 o nel 2019, una proposta ufficiale che ha messo anche d'accordo i grandi centri italiani del rugby da nord a sud, vero? Ma direi di sì, mi sembra che sul fatto che ci sia la volontà di prevedere partecipazione dell'Italia ai mondiali del 2015 in qualità di sede è una cosa che ha trovato un consenso molto trasversale un po' a tutte le latitudini del nostro sport nazionale. Io credo che dal punto di vista tecnico ci manchi praticamente nulla. Io credo che manchi la volontà politica in questo momento di comprendere che non si tratta più solo di un evento sportivo di nicchia, ma che ormai è diventato un importante evento dal punto di vista dell'impatto mediatico, sociale e anche economico. Non dimentichiamoci che gli analisti hanno stimato che sul PIL francese, che non è proprio l'ultimo PIL del mondo, l'impatto dei mondiali due anni fa abbia avuto almeno uno 0,2, tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL stesso, quindi stiamo parlando di numeri rilevanti. Questa concordia di intenti che si registra di fronte alla possibilità di ospitare la Coppa del Mondo, si è trasformata dal mio punto di vista, onorevole, in divisione di campanile nel momento in cui si fa più concreta la possibilità per alcune formazioni italiane di entrare nella cosiddetta Celtic League. Innanzitutto sentiamo questa scheda che ci spiega di cosa stiamo parlando. Sponsorizzata dalla marca di sidro Magners, la Celtic League è il campionato sovranazionale di rugby che riunisce squadre di Galles, Irlanda e Scozia. Inizialmente Galles e Scozia unirono le proprie forze per i campionati del 1999 e del 2000, con l'estensione della prima divisione gallese anche alle squadre di Edimburgo e Glasgow e la nascita della Lega Gallese-Scozzese. Nel 2001 la Irish Rugby Football Union, la Scottish Rugby Union e la Welsh Rugby Union decisero di creare una nuova competizione che avrebbe incluso anche le squadre delle quattro province irlandesi. Da questo accordo è nata la Celtic League. Attualmente vi giocano 10 squadre. Si tratta delle quattro province irlandesi di Munster, Leinster, Connacht e Ulster, delle due franchigie scozzesi Edinburgh Rugby e Glasgow Warriors e delle quattro regioni gallesi Scarlets, Cardiff Blues, Ospreys e Newport Gwent Dragons. Dal 2010-2011 arriverà anche l'Italia, molto probabilmente con due squadre. Insomma, onorevole, molti sono i candidati, ma ben pochi saranno invece gli eletti ad entrare nella Celtic League. Come la vede lei questa situazione di così grande affollamento in entrata in questa nuova Lega? Ma guardi, l'affollamento in entrata è solo mediatico, nel senso che in realtà dei candidati, di candidature vere ce ne sono solo tre. Se non fosse per un meccanismo abbastanza vincolante che ha stabilito la federazione celtica, la Celtic League appunto, cioè l'obbligatorietà di presentarsi con delle credenziali dal punto di vista finanziario di meno 8 milioni di sterline. E fino a qua le candidature sono tre in realtà, la candidatura del Po, appunto, quella di Viadana, Parma e quella fascia diciamo lombardo-emiliana, la candidatura di Treviso, in splendida solitudine, mi si è perso la battuta, e questa candidatura di Roma dell'ultima ora che però dal punto di vista del bilancio zoppica un po'. Onorevole Fava, mi sembra di cogliere nelle sue osservazioni che questa candidatura romana l'abbia un po' colta di sorpresa, no? No, non ha colto per nulla di sorpresa, però bisogna stare con i piedi per terra, cioè quando si avanzano delle candidature e a copertura del budget necessario si mette ad esempio, come è successo con Roma, 1,5 milioni di contributo da parte della federazione, senza che la federazione abbia mai assunto decisioni in tal senso, insomma sono iniziative temerarie, ecco, io direi, mi aspettavo un pochino di più di serietà rispetto a questo progetto. Lei ha anche detto, questo campionato, questo torneo si chiama Celtic League, noi siamo paesi di origine celtica e quindi è cosa nostra, è cosa da Nord Italia, perché qui attecchiscono queste tradizioni. Quello è l'aspetto evocativo, quello a noi piace pensarlo, però noi riteniamo anche che la tradizione rugbistica sia altrove, la tradizione rugbistica non sta nella capitale. La capitale ha già un'opportunità straordinaria, la capitale ospita il Sei Nazioni, il Flaminio è sempre pieno, io credo che Roma di questo debba essere contenta, ma voglio dire, il rugby molto spesso si è fatto altrove in Italia, di questo bisognerà tenerne conto. Onorevole, bisognerà spiegarlo anche al presidente della Celtic League, che ha dichiarato che Roma e Treviso sono in pole position per ottenere questi posti nella Lega Sovranazionale. Però quelli della Celtic League forse non hanno ben presente esattamente quelli che sono i numeri in termini di iscritti, in termini di organizzazione, e soprattutto quelle che sono le strutture sportive, cioè dove si gioca a Roma, nello stadio della federazione? Insomma, mi sembra un po' eccessivo. Però i romani hanno detto: noi ci facciamo un altro stadio alle Tre Fontane, si potrebbe giocare là. Benissimo, e chi lo paga? Questo poi ce lo spiega. È un piccolo dettaglio qui, cioè, c'è sempre questa tendenza a pensare che paga pantalone. Io credo che le altre due franchigie abbiano le carte in regola e abbiano dimostrato anche a livello di sponsor messi in campo. Vedremo, insomma, io poi non ne faccio una questione di vita o di morte. Abbiamo delle preferenze e le abbiamo manifestate, ecco. Senta, è inevitabile che sul tema partisse anche la polemica politica, come un po' stiamo sintetizzando. Da Roma arrivano queste dichiarazioni, ad esempio, la Lega ha un approccio molto nordista su qualsiasi argomento, anche quello della palla ovale. Come si sente di rispondere a queste provocazioni? Non è una provocazione, è un dato di fatto. Noi rappresentiamo un territorio e vogliamo continuare a rappresentarlo. È chiaro che siamo convinti che alla fine le cose quando funzionano, funzionano per tutti. Siccome siamo sicuri che dalle nostre parti le cose funzionano, credo che a Roma qualcuno dovrebbe ragionarci su. Perché invece c'è il rischio che i romani facciano un po' le cose, mi conceda il termine, alla Carlona, insomma, con faciloneria. Dal punto di vista rugbistico, Dal punto di vista rugbistico è innegabile che in questo territorio ci sia meno tradizione che nel Veneto profondo o nell'Emilia di un certo tipo. Cioè, qui c'è gente che il rugby l'ha scoperto la settimana scorsa. Il fatto che dal Flaminio vengono distribuiti gli opuscoli con il regolamento a tutte le persone che entrano la dice lunga sulla cultura rugbistica di queste zone. Si discute quindi per l'ingresso nella Celtic League, poi si discute sull'eventuale Gran Premio di Formula 1 a Roma, che in qualche modo farebbe ombra allo storico Gran Premio di Monza, ma insomma tra Roma e la Padania non si riesce a venire ad un accordo neppure in materia sportiva. Guardi, in realtà tra Roma e la Padania gli accordi ce ne sono raggiunti anche troppo, per i miei gusti, se sono sincero. Stiamo facendo un grosso sforzo nel continuare a cercare di sostenere le ragioni di una capitale che dimostra sempre di più di non essere all'altezza del prestigio che ha, perché parliamoci chiaro, mi sembra che la vicenda dell'ultima iniezione di denaro da 500 milioni è recente, l'ha fatta questo governo, non l'ha fatto un altro governo, e noi di questo governo ne facciamo parte. Nessuno può dire che noi siamo contro Roma, noi diciamo che siamo per il nostro territorio. una soluzione costruttiva per sciogliere questo nodo delle candidature italiane alla grande lega del rugby europeo? Quale potrebbe essere dal suo punto di vista, da esperto del settore, diciamo così? Da esperto del settore sarebbe sufficiente che la federazione guardasse con serietà i curriculum presentati e i budget presentati e si risolve da sola la questione. Se ve la giocaste sul campo, cioè mettete insieme due selezioni vede, sul campo la si gioca tutti gli anni, ma alla fine è da quasi un decennio non si vedono formazioni del centro-sud arrivare alle fasi finali di un campionato seppur scadente come quello del Super Ten, quindi cioè, penso che c'è già tutto lì, si chiude lì la discussione, nel senso che si capisce lì dove si gioca il rugby in Italia. Non c'è il rischio che però anche questa passione per il rugby venga strumentalizzata da voi della Lega in qualche modo? Guardi, non c'è nessun rischio, non si preoccupi, tanto alla fine i risultati sportivi escono anche dai confini nazionali. In questo momento la notorietà di questo sport non è solo merito dell'ottimo lavoro del bravo presidente Giancarlo Dondi, ma è anche merito di un movimento generale che sta crescendo in tutto il mondo. Quindi insomma il dado è tratto, Roma ladrona almeno sul campo del rugby non passa. Esatto, la Lega non perdona, dice un antico adagio. Vedremo chi la spunterà. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.